un'opera scritta intorno al 1830, di cui tra le altre cose io ho potuto avere l'onore di vedere lo spartito originale. Io il manoscritto, perché era di proprietà di una signora in eredità che conoscevo, Lucia di Lammermoor, e racconta una storia tipicamente romantica. C'è il malvagio Enrico, che si chiama quindi come il sottoscritto, il quale vuole che sua sorella si sposi a un tale, che no, diciamo al cattivo, ecco. La sorella non vuole sposarsi al cattivo e vuole invece, ama invece Edgar. Naturalmente Enrico il malvagio non vuole nemmeno sentire parlare di Edgar, chiaro? E cerca in tutti i modi di distogliere Edgar da sua sorella, inventando documenti falsi, insomma una lettera falsa in cui si vede che lei è legata a un altro uomo. Edgar, disperato, butta via l'anello che la donna le aveva dato. Il matrimonio avviene, il matrimonio voluto da Enrico il cattivo, da Enrico il malvagio, avviene, ma Lucia impazzisce. Attenzione, Lucia impazzisce e uccide il neo sposo. Va bene, come a dire che amor omnia vincit, che alla fine, voi sapete che insomma nella storia non solo italiana, ma nella storia europea, i matrimoni combinati nelle famiglie nobili erano qualcosa di molto comune, di molto scontato. Lei ascolta così da semplice unitore questa cosa. No, io sono iscritto. Lei è iscritto. Ho fatto 123. Oh, per Dio! Ecco. Oh, la Lucia di Lammermoor, perché ne parliamo? Perché ci interessa? Sì, ci interessa. E perché ci interessa perché venne rappresentata a Rouen e fu un'occasione per i coniugi Bovary, di cui vi ho già parlato qualche volta, di andare all'opera a vedere, a sentire un famoso tenore. E arrivati lì all'opera, naturalmente quello è pane per i denti di Emma, una storia così sanguinosa e amorosa, laddove Charles non capisce assolutamente niente e continuamente deve chiedere a Emma che cosa sta succedendo, come mai quello che dice di amare si comporta in modo crudele e cattivo, ed Emma di tanto in tanto lo zittisce pensando che queste sono le solite manifestazioni dell'insipienza del marito. L'episodio avrebbe nessun significato particolare oltre a quello di rappresentare un incremento ulteriore ai pensieri amorosi di Emma, se non che in quella stessa rappresentazione, in quel teatro di Rouen, incontra Emma chi? Léon. Incontra Léon. E quindi, con l'imbarazzo, vi ricordate che Léon se n'era andato via angosciato perché Emma rifiutava le sue offerte, con angoscia, desiderio, con il pianto nella mente, ecco una bella espressione, con il pianto nella mente avviene l'incontro fra i due. L'incontro avviene lì a teatro, però poco dopo Léon, che intanto è cresciuto, non è più quel ragazzino sprovveduto, anche se lo è sempre, come vedremo, sufficientemente, segue i Bovary fino all'albergo in cui stanno, apprende in quale albergo stanno, ci torna il giorno dopo e trova Emma sola, senza Léon. Senza chi? Senza Léon. Senza Charles. E qui avviene l'incontro che adesso leggiamo. Trattasi del capitoletto numero intendo dalla terza parte del libro, dopo due pagine, trovate questo capoverso che dice: due pagine. L'assemblée déterminée à le laisser parler sans l'interrompre. Chi dica la pagina? 3.14. Come il numero 3.14? Per modificato l'angelo, non ho capito. La circonferenza. No, 3.14. 6.28. Ah, sì, sì. Ci siamo? Allora i due si incontrano. Una delle cose che Flaubert racconta nella sua opera, io ho ancora ricordato, ma lo sapete naturalmente, che oggi ci sono queste due ore di seminario dalle 3 alle 5 con il dottor Casani sulla lettera di Flaubert, e poi ce ne sarà un'altra successiva. Com'è che due si incontrano dopo aver avuto una liaison amorosa? Come si sente? Con imbarazzo. No? Con imbarazzo. E al tempo stesso, pensando a come le cose potevano essere andate diversamente, no? E quindi lei lo sta ascoltando, ella sembrava determinata a lasciarlo parlare. Zitti ragazzi, se non lo si può leggere. A lasciarlo parlare senza interromperlo, incrociando le braccia e abbassando il viso, considerava la rosettina delle sue pantofoline. Anche voi avete probabilmente delle pantofoline con una rosetta. Sono convinta che lei ce l'ha, è vero? Non ce l'ha. E lei lo ha beccato subito. E faceva. Lei faceva nella stoffa delle pantofoline dei piccoli movimenti a intervallo con le dita dei piedi, del piede. Tuttavia era sospirato. Quello che c'è di più lamentevole, non è vero, è trascinare come me un'esistenza inutile. Se i dolori nostri potessero servire a qualcosa, ci si consolerebbe al pensiero del sacrificio. Egli si mise a vantare la virtù, il dovere e le immolazioni silenziose, avendo lui stesso un incredibile bisogno di dare amore che non poteva essere saziato. Mi piacerebbe molto, ella disse, essere una suora d'ospedale. Ahimè, egli replicò, gli uomini non hanno queste missioni sante. E non vedo in nessuna parte nessun mestiere, a meno forse quello del medico. Con un leggero scotimento delle spalle, Emma l'interruppe per compiangersi della propria malattia in cui aveva rischiato di morire. Che peccato, adesso almeno non avrebbe più sofferto. Leon subito invidiò la calma della tomba. E anzi una sera aveva scritto il suo testamento raccomandando che lo seppellissero in quel bel copripiedi con le bande di velluto che lei gli aveva regalato. È così che avrebbero voluto essere stati, l'uno e l'altro facendo un ideale, costruendosi un ideale sul quale modellavano adesso la loro vita passata. D'altronde la parola è un laminatoio che allunga sempre i sentimenti. Ma a quella invenzione del copripiedi, perché dunque? E le domandò. Perché? Egli esitava. Perché vi ho molto amata. E compiacendosi di essere riuscita a superare la difficoltà, Leon con la coda dell'occhio spiò la sua fisionomia. Fu come il cielo quando un colpo di vento caccia via le nuvole. L'ammasso di pensieri tristi che si addensavano parve ritirarsi dai suoi occhi azzurri. Tutto il suo viso risplendette. Egli aspettava. E finalmente lei rispose: non l'avevo mai supposto. Allora si raccontarono i piccoli avvenimenti di quell'esistenza lontana di cui avevano riassunto in una sola parola i piaceri e le melanconie. Egli si ricordava la pergola di clematidi, i vestiti che aveva portato, i mobili della sua stanza, tutta la sua casa. E i nostri poveri cactus dove sono? Il freddo di quest'inverno li ha uccisi. Ah, quanto ho pensato a essi, sapete? Spesso li rivedevo come un tempo, quando nelle mattine d'estate il sole batteva sulle persiane e scorgevo le vostre due braccia nude che passavano tra i fiori. Povero amico, ella fece tendendogli la mano. Leon subito vi incollò le labbra. Poi, quando ebbe profondamente respirato, voi eravate in quel tempo per me non so quale forza incomprensibile che catturava la mia vita. Una volta, per esempio, ero venuto a casa vostra, ma voi non ve ne ricordate probabilmente. Sì, ella disse, continuate. Voi eravate in basso in anticamera, pronta a uscire sull'ultimo gradino. Avevate un cappellino coi fiori blu e senza che ci fosse nessun invito da parte vostra, mio malgrado, io vi ho accompagnata. A ogni minuto, tuttavia, avevo sempre più la consapevolezza della mia stupidità e continuavo a camminare vicino a voi, non osando seguirvi del tutto e non volendo però lasciarvi. Quando entravate in un negozio, io restavo in strada e vi guardavo dal vetro sfilarvi i guanti e contare i soldi sul banco. Poi avete suonato da Madame Tuvache, vi hanno aperto e io sono restato come un cretino davanti alla grande porta pesante che si era richiusa su di voi. Madame Bovary, ascoltandolo, si stupiva d'essere così vecchia. Tutte quelle cose che riapparivano le sembravano allargare la sua esistenza. Erano come immensità sentimentali a cui ella si riferiva e diceva di tanto in tanto, a voce bassa e con le palpebre semichiuse: sì, sì, è vero, è vero, è vero. Suonarono le 8 a differenti orologi del quartiere Guavasini, che era pieno di collegi, chiese e palazzi, grandi palazzi abbandonati. Non parlavano più, ma sentivano, guardandosi, un fruscio nelle loro teste, come se qualcosa di sonoro fosse reciprocamente sfuggito dalle pupille fisse dei loro occhi. Avevano unito le mani. E il passato, l'avvenire, le reminiscenze, i sogni, tutto si trovava confuso nella dolcezza di quest'estasi. La notte si addensava sui muri dove brillavano ancora, per metà perduti nell'ombra, gli spessi colori di 4 stampe che rappresentavano 4 scene della Tour de Nesle, con una leggenda in basso in spagnolo e in francese. Dalla finestra a ghigliottina si vedeva un angolo di cielo nero fra tetti a punta. Lei si alzò per accendere 2 candele sul comò, poi venne a risedersi. Ebbene, fece Leon. Ebbene, ella rispose. E cercava come di riannodare il dialogo interrotto quando ella e gli disse: come mai nessuno finora mi ha mai espresso dei sentimenti simili? Il sostituto esclamò che le nature ideali erano difficili da comprendere. Lui subito, di primo acchito, l'aveva amata e si disperava pensando alla felicità che avrebbero avuto se per una grazia del caso, incontrandosi più presto, prima, si fossero legati l'uno all'altro in maniera indissolubile. Vi ho pensato qualche volta, e la ripresa. Che sogno, mormorò Leo, e palpeggiando delicatamente il bordo blu della sua lunga cintura bianca, aggiunse: e chi ci impedisce allora di ricominciare? No, amico mio, ella rispose, sono troppo vecchia e voi siete troppo giovane. Dimenticatevi, altre vi ameranno, voi le amerete. Non come voi, egli esclamò, bambino che siete, su, fate il bravo, lo voglio. Ella gli raffigurò le impossibilità del loro amore e che dovevano rattenersi come un tempo nei semplici termini di un'amicizia fraterna. Ecco, fermiamoci qui e consideriamo questa pagina. All'inizio, nelle prime righe, se avete fatto caso, c'è lei che muove le dita del piede. Ecco, è un dettaglio che anime sensibili quali siete non potete lasciarvi sfuggire. Poi lo vedremo dopo, queste delle pantofoline. Innanzitutto vi faccio notare che il piede era un elemento erotico molto forte. Nell'educazione sentimentale, il protagonista vede il piede di una donna e dice: la vista del vostro piede mi turba. Ora, io non so se nei vostri rapporti con i vostri ragazzi improvvisamente Matteo, per esempio, di turba e dice: Adriana, mi turba il tuo piede. Non so, forse perché puzza, potrebbe pensare. Ma insomma, diciamo la verità, noi non ci lasciamo turbare dal piede. Io ho una lunga esperienza della vita, delle donne, dell'amore. Io vi confesso che non sono mai andato in solluchero per il piede di una donna. Poi nell'intimità è diverso, perché allora il piedino può essere... Ma insomma, mentre invece allora il piede ha un valore drammatico, insomma. Il protagonista dell'educazione sentimentale non avrebbe mai detto a Madame Arnoux: la vista delle vostre tette mi turba. Sarebbe stata una cosa scandalosa, violenta, tremenda, no? A non dire altre parti del corpo, mi fermo qui naturalmente, ma sapete, lo bene induce, no? a parlare a volte in un modo un po' aperto. Nella scarpettina, descritta con la rosetta, perché dovete pensare che se voi doveste costruire l'ambiente in cui vive Madame Bovary non avreste alcuna difficoltà. È fatto di color pastello, evidentemente, sono vari colori pastelli, ci sono oggetti di pessimo gusto di fronte a cui Gozzano avrebbe neanche lui li avrebbe accettati, insomma, no? Ceramiche, putti, angioletti, fiorellini, no? Era la paccottiglia più incredibile che si potesse immaginare. Una donna senza cultura, con l'anima, la mente tra le cose romantiche, potete immaginare quello che poteva combinare, insomma. Ma che significa il fatto che muove il piedino? Muove le dita del piedino, che poi va bene per una donna, per un uomo sarebbe spaventoso, no? Che muova le dita del piedino. A parte il fatto che i piedini vostri ormai quindi voi ragazzi sono 45, quindi insomma fettone pauroso, lì evidentemente si parlava di mini piedini, 35-34, no? Muoveva a intervalli, a piccoli movimenti, le dita del suo piede. Flaubert ha chiesto di guardare i dettagli giustamente nella sua opera, guardare i dettagli, e noi guardiamo questi dettagli, è una sorta di irrequietezza femminile questo dei ditini che si muovono, il piedino che si muove nella pantofola, capite? Flaubert tende sempre a far sì che il sentimento venga espresso da fatti oggettivi, da cose. Ricordate per tutto quella cosa meravigliosa di cui parlava Auerbach, quello del piatto sul quale le sembrava che fosse preparata la sua amarezza. Vide nel piatto la sua amarezza, no? Dai fiori d'arancio che uno ha agli inizi del momento del matrimonio, fiori d'arancio che ricorderete che lei poi brucia, si arriva al piatto della minestra che deve servire al marito. Come Adriana direbbe, dai fiori d'arancio alla minestra. C'è un gap, effettivamente. La sua frase preferita. Ecco, questo potremmo dire, effettivamente, vedete, in questo colloquio con voi è una delle mie frasi del matrimonio, è dai fiori d'arancio alla minestra, diciamo così, dai fiori d'arancio alla minestra, dai fiori d'arancio alla minestra del marito, questo è il passaggio. Andiamo oltre. I due sono romantici e lamentosi. Lei di che si lamenta? Ovviamente della sua vita in toto. La sua vita in toto e del fatto che è stata ammalata. E lui parla, lui deve essere una rottura di palle, questo uomo assolutamente incredibile, parla delle virtù, delle immolazioni silenziose, del bisogno di devozione, una cosa terribile. Vediamo fra poco che Emma, ancorché bacata, capirà che tipo di uomo è questo. Meglio l'altro, che era un duraccio, diciamo così, però era un uomo. Questo fa venire veramente, uomini del genere fanno venire, questa è un'espressione tipica che si usava una volta, non so se voi la conoscete, fanno venire il latte alle ginocchia o il latte ai gomiti, che è peggio ancora. E allora lui che cosa dice? Che cosa dice? Anzi, non lei che cosa dice? Lei dice: vorrei fare una suora d'ospedale, essere una suora d'ospedale. Voi capite quanto è inverosimile e scema l'idea che lei voglia fare una suora d'ospedale. Dice sì, perché non ci sono più professioni in cui noi possiamo dedicarci agli altri, dice lui, salvo forse quella del medico. Lei, che ha un medico come marito naturalmente, alza le spalle per dire: ma che sta di questo marito, un medico, un coglione come quello. E qui a questo punto la beffa nei confronti del tono romantico in Flaubert aumenta ulteriormente, perché Léon dice che avrebbe voluto morire con avvolto nel copripiedi di lei. Quindi lei gli ha regalato un copripiedi. Io vorrei sapere da voi fanciulle chi regalerebbe un copripiedi al suo ragazzo. Lei lo regalerebbe? Siamo nel momento dell'anniversario, l'anniversario del giorno in cui vi siete conosciuti. Lei invece ce l'ha il ragazzo, e dice: ho preparato un bel regalo per te. E lui si aspetta chissà quale regalo, insomma, guarda, un regalo sexy, insomma, non lo so. Insomma, una cosa. E che cosa le porta lei in Irlanda? Le porta un copripiedi, dicendogli: e questa è fatta a mano, l'ha fatto mia nonna e ti serve. E che lui dice: ma come mi serve? Le notti fredde d'inverno a Roma, lui potrebbe rispondere: io dormo nudo in un piumino. E lei: non avete ancora avuto alcuna contubernalità avvinghiante, quindi lei non è ancora stata a letto con lui, non può sapere nulla, eccetera. Quest'idea di regalare maschio, giovane, non un vecchietto. Cioè, a me se regalassi con quattro piedi, la no, sbella. No? Ma fatti i copripiedi, faccio vedere cosa direi. Mo ti faccio vedere io i copripiedi, eccetera. No? Ma un ragazzo di 23, 24 anni, regalarmi un copripiedi. Voi sentite, anche se siamo nell'Ottocento, l'anomalia di un regalo del genere. Però lui, per soprammercato, vorrebbe morire nel copripiedi. E qui lo spirito sarcastico di Flaubert è il massimo. Però, essendo lei stupida, non capisce e crede a questa, quella che lui chiama l'invenzione del copripiedi. Poi magari non è affatto vero, perché è un'invenzione, perché è quel punto, la frase nodale questa, dice che loro volevano costruirsi il loro passato non come era avvenuto, come si era svolto, ma come avrebbero voluto che si svolgesse. Attenzione ragazzi, un punto nodale. Quando noi ricordiamo la nostra vita passata, specialmente quando si hanno molti anni sulla groppa, e mi rivolgo a lei che non dimostra di avere 21 anni, neanche 22, ci siamo, guardatevi negli occhi, non avete presente la mia faccia, e questo mi duole, mi rattrista molto, lei non ce l'ha presente, e questo mi dispiace molto, scusate, mi ferisce per il narcisismo, quindi guardatevi. Quando noi ricordiamo il passato, crediamo di ricordarcelo bene, ma sempre lo ricordiamo deformato. Sempre. Quindi le autobiografie sono sempre, apro e chiudo la parentesi che sarebbe importante, sono sempre bieche, perché ci danno un'idea di noi, non come siamo stati veramente, ma come ci siamo pensati, come avremmo voluto essere, no? Ci sono sempre dei benefici scarti o malefici scarti, per cui noi ci ricordiamo le cose sempre con uno spostamento. E quindi cosa dice lui? Che cosa fanno i personaggi di Flaubert? I personaggi di Flaubert hanno come centro del loro ideale, questa è la frase che chiude con tutto il corso, non è chiude adesso, ti dà un epitome. I personaggi, questo da scriverlo, ecco questi, non solo su carico, due altri posti, proporrei in salotto. E in cucina, perché lo vedeste sempre, qui in tre posti, i personaggi di Flaubert amano il condizionale passato. Tutto Flaubert si racchiude in questo concetto, amare il condizionale passato. Spiego. Non amare quel che sono stato, ma quel che avrei potuto essere. Cioè una vita che non è stata vissuta, badate, e che ormai non si può più vivere. E questa è la gigantesca, diciamo così, trovata, ma visione del mondo di Flaubert. Non raccontare le cose come sono andate, ma come avrebbero potuto andare. La parola in questa deformazione della realtà ha un ufficio importantissimo. La parola, dice, è un laminatoio sul quale si modellano i sentimenti. Vi spiego. Laminatoio è ma è uno strumento per rendere piatte, no? Piatte per qualunque oggetto di metallo, probabilmente, un laminatore, va bene? Se io uso certe parole, queste parole creano dei sentimenti diversi da quelli che realmente ci sono. Esempio, due amanti si amano moderatamente, non esistono solo, no? Come gioia pensa, ma uno dice io ti amo infinitamente. Mettiamo che l'interlocutore sia un filologo, mettiamo che l'interlocutore abbia deciso di non prendere mai le parole in un senso metaforico traslato, ma di prendere della lettera. Allora comincia a dire: dunque tu cosa mi hai detto? Che mi ami infinitamente? Hai usato un avverbio di modo. Questo avverbio di modo è costruito sull'aggettivo infinito, infinito da infinito, questo è il colloquio amoroso che avviene, vuol dire che non finisce. In questo modo tu mi hai dichiarato che il tuo amore non finirà, ma non solo non finirà nel tempo, anche nello spazio, ma è un amore che può estendersi di qui a New York, poniamo. Adesso sei disposto ancora a dire che mi ami infinitamente, l'altro forse un po', ma sì, certo, no, devi essere consapevole e prendere le tue responsabilità. Okay, no. Mettiamo che io dica che amo infinitamente una persona, dopo che l'ho detto, non è più come prima, non solo per la persona, ma anche per me. Colgo l'occasione per ricordare che i tempi in cui mi occupavo di cose molto diverse da queste, cioè da un po' di psicoanalisi, insomma, di psicodrammi, avevamo fatto un esercizio che era quello del treno, quello dello scomparso. Non c'entra, ma se non per darvi un'idea, io avevo immaginato due persone che hanno sentimenti di tranquilla indifferenza, ma non di ostilità, assolutamente no, l'uno nei confronti dell'altro. Si trova in uno scompartimento ferroviario e uno cerca di sedurre l'altra persona, un uomo, una donna, in tal punto, no? La donna naturalmente, quando riceve queste parole di seduzione, questo è un esperimento collaudatissimo che ho fatto io in persona, capisce che è un gioco e quindi risponde con una frase giocosa, ma il viaggio è lungo e l'altro è costretto a rispondere stando al gioco, e quindi si dicono delle cose belle e poi a un certo momento, dovendo continuare a dirsi delle cose, perché questo è l'esperimento, si rendono conto che cominciano a scoprirsi, a dire qualcosa della loro vita interiore, e stanno costruendo una scena che è più reale di quella che immaginano. Insomma, dicendo parole d'amore, i due creano un'alterazione nel loro rapporto. Le parole d'amore creano una alterazione. E badate, a me gli occhi, pupi, che vale anche l'opposto. Niente molestia. Se tu dici una parola di odio a una persona, le cose cambiano. La persona dopo non la riesci più a vedere come prima. Le parole hanno un'influenza fondamentale nell'elaborazione dei nostri sentimenti. Quindi, se tu cominci, vorrei la tua morte, dopo non puoi voltare le spalle e andartene come se niente fosse. Qualcosa è cambiato. Le antipatie storiche, le avversioni di una persona qui all'università, io sono una persona abbastanza amica, abbastanza, non mi prendere troppo la lente, ma c'è una persona che detesto. Ora, essendo un uomo dotato di discreto patrimonio cerebrale, ha capito cosa volevo dire? No, intendevo dire, perché voi pensate invece costruito su di me, ma l'ho alimentato di pensiero in pensiero per tanti anni, per cui non esco più fuori. Non esco più fuori. La notizia in una persona, no, mita, ma certamente umana, come sono io, che questo avesse una malattia, oso dire che mi desterebbe quasi un senso di malcelata soddisfazione. Ma così avevamo, questo è un discorso molto meno scadente. Se io mi convinco che amo, facciamo un discorso pericoloso, che amo uno del mio sesso, dunque tengo a precisare che io sono eterosessuale, in modo indiscutibile, non ho nessuna inclinazione, però comincio a pensare che quel ragazzo con la sua dolcezza, tenerezza nei miei confronti, forse non è trascurabile, cioè, oh, io potrei muovere la barra del timone della mia vita, questo è il punto, tutto parte di qui, dalla testa. Qualcuno aveva scritto: chi è il nemico della nostra vita? Il nostro cervello. Quindi scrivo. I due sono ben disposti, ma quello che dico, i due, cioè Leon e Erika, sono ben disposti, ma è quello che dicono che naturalmente li incrementa l'un con l'altro. Aspettate che ho perso il tipino. Ecco qua. Devo chiedere come sempre un po' di interrompi. Basta dire a una donna che le cose del suo sentimento, di pensare, una donna può essere sfigata nel lavoro, aver perso la casa, aver perso tutto, ma scopre un uomo da amare e che ama, è in paradiso. Io ho visto delle arriviste formidabili che di fronte alle cose d'amore si sono sciolte in un modo straordinario. Devo dire, uomini mai, cioè l'arrivismo per l'uomo è fatto molto più significativo. Perché dunque? Che cosa vuol dire quel perché dunque a cui l'altro risponde perché? Niente, perché la nostra vita è andata così. Però guardate che quando lui dice perché vi ho molto amato, spia la sua fisionomia, cioè in realtà è un seduttore, vuol vedere l'effetto che ha prodotto, perché se fosse totalmente innamorato non spierebbe la sua fisionomia, capite? Non spierebbe. Quando si ama qualcuno si amano i suoi oggetti, le sue cose, le sue abitudini, sapete, no? Nella fattispecie qui c'erano i cactus. Però nel linguaggio mieloso, stilinguito di Leon, i cactus diventano i poveri cactus, no? Copri i piedi, poveri cactus, altro che il latte ai gomiti, insomma. E l'altra gli dice: i poveri cactus nostri sono morti. E dice lui che ha pensato ai cactus, ecco, ora senza è strano che abbia pensato ai cactus, francamente, però dice anche una cosa, sto porco, che in realtà ha pensato ai cactus, ma anche al fatto che lei si muove tra i fiori con le due braccia nude. Flaubert è molto, molto intelligente. E quindi le braccia nude fanno pensare che il pensiero di Leon sia non tanto per i cactus, quanto per Emma, no? Quello che gli importa non sono tanti cactus, ma sono le braccia nude. Vedete come quando uno ha un desiderio sessuale, quel desiderio, noi possiamo parlare dell'IVA, dell'IMU, ma se tu hai un desiderio sessuale per la tua commercialista, parlando dell'IMU, a un certo punto le allungherai la mano sulla tetta. Questo è il punto sostanziale. No, quanto devo pagare, ma a un certo punto capita quello. Questo è bello, quello della commercialista. E a questo punto lui, capite che quando c'è un assedio amoroso e la persona comincia a cedere, di qualunque cessione. Quindi quando lei dice povero amico mio, in italiano lo diremmo di meno, lui subito tac, le bacia la mano. Baciare la mano è una gran cosa, perché è una cosa che può attenere alla galanteria, semplicemente, all'omaggio del maschio verso la femmina, non ti compromette e fa capire che di lì si può andare verso più perigliosi sentieri, come voi direste. La pagina che stiamo per vedere sarà un doppione, cioè la troveremo pari pari nell'educazione sentimentale. I due ricordano quello che avevano fatto assieme. Attenzione, quando noi viviamo una storia d'amore avvengono molte cose che non siamo in condizioni di commentare per imbarazzo, per emozione, e non pensiamo che le cose che ci hanno colpito e ci hanno emozionato noi abbiano emozionato e colpito anche l'altro. Quando ci si ritrova, spesso capita che uno dica: ti ricordi quella volta che sono venuta a trovarti? E tu sei convinto che la persona non se lo ricordi affatto, ma la persona se lo ricorda perché teneva quell'incontro almeno quanto ci tenevi tu. Quindi dice: noi eravamo dominati da forze incomprensibili, ti ricordi quando io sono venuto quel giorno, ti ho accompagnato nei negozi e rimanevo dietro alle vetrine e poi ti ho visto andare da una signora tua amica? Ricordando queste cose, Madame Bovary dice una cosa interessantissima: come si sentiva vecchia. Questa espressione, sentirsi vecchia, io credo che sia poco comune fra ragazzi della nostra età. Credo che sia assai comune. Io non credo che Adriana dica mi sento vecchia. Sapete quando si comincia a dire questa espressione? Quando uno ha avuto delle esperienze, molte esperienze, ma anche non molte, ma profonde esperienze. Allora, anche se hai 25 anni, avendo avuto delle esperienze forti, cominci a dire mi sento vecchia, mi sento vecchia. E lei aveva avuto delle esperienze forti. E l'esperienza forte qual era stata? Era stata quella con Rodolfo, oltre che con lui andata male inizialmente. Mentre stanno parlando nell'albergo, ricordate, in cui erano discesi a Rouen di Bovary, suonano le 8 di sera, sentirono le 8 che stanno suonando. Guardate che meraviglia questa notazione. Che cosa ci dice? Ci dice che il pomeriggio in cui si erano incontrati, in cui era lecito incontrarsi, è finito. Le 8 di sera sono, per chi ha avuto un incontro pomeridiano, sono l'ora in cui si prende congedo. E loro non parlavano più, tra due amanti che si ritrovano, non si parla più, a un certo momento, per due ragioni. Uno per emozione, per commozione, e due perché non c'è nient'altro da dire, perché l'anima la si è già versata nelle parole che si sono dette. Però sentono, e guardate com'è implacabile nel vedere la natura animalesca dell'uomo Flaubert, sentono come un brusio nella loro testa. Non sono pensieri, sono dei fruscii. Gli stupidi, più che pensieri, hanno fruscii dentro la testa, sentono come un brusio e fanno un qualcosa che è la prima tappa, accanto al baciare le mani che ha fatto già Leo, la prima tappa fra un uomo e una donna, fra tutti gli uomini e le donne del mondo che iniziano una relazione. Tutti si stringono la mano, si tocca. Voi sapete che c'è una fenomenologia dello stringersi la mano strappita. Ci sono mani che si stringono fra uomo e donna e la stretta rimane più a lungo, rimane impercettibilmente più a lungo, e anche se le mani sono sudate e quindi non piacevoli per l'emozione, tutto questo viene assorbito dal fascino della situazione. Fra un uomo e una donna che cominciano una relazione non c'è abbraccio, mai. L'abbraccio è pericolosissimo, l'abbraccio è per gli amici, l'abbraccio viene dopo, ma c'è la mano, c'è la mano. Si stringono quindi la mano, lei accende due candele, lui fa come in una ripetizione di quel perché prima, perché, perché è successo tutto questo, lui fa, e bien? E lei risponde, e bien? E a questo punto lei con mirabile tempismo si apre finalmente a se stessa e dice, ma come mai è la prima volta che io sento delle emozioni così forti? E lui subito dice, ma perché le anime alte e profonde è difficile che si incontrino nell'esistenza, e siccome quello che l'uomo ha in testa diversamente dalla donna, non con la stessa cosa, è, adesso vi dico cosa l'uomo ha in testa, guardate bene dove metto la mano, guardate bene, e non mi dite la risposta naturalmente, che sarebbe indecente, un vergogno dirla. Guardate cosa l'uomo ha in testa, ditemi se avete capito, lei ha capito che cos'è, è così, quindi appena può, è chiaro, ha capito anche lei, appena può, dice, ma perché non ricominciamo? Sentite quanto è rozzo rispetto a lei che è ancora avvolta nelle delinquescenze amorose, lui dice, oh, andiamo al sodo, capito? Andiamo, perché non ricominciamo? E lei, che è incredibilmente stupida e romantica, dice, no, dice, sono troppo vecchie, voi siete troppo giovani. Il topos dell'età, sapete, nelle storie sentimentali è fondamentale. Questo sono troppo, questa è una cosa che gli uomini, come vi dicevo, dicono alle ragazze, per esempio, io sono troppo vecchio, potrei essere, quante volte ti è capitato a me di dire, potrei essere tuo padre, tuo nonno, tuo bisnonno, tuo trisnonno, perché mi sono sentito dire, basta, è per dire, insomma, non è possibile. Lei dice, io sono troppo vecchia, la donna non può essere più grande dell'uomo, no? E altre, sentite cosa dice, altre vi ameranno e voi amerete altre, come per sentirsi dire in risposta, no, non avrò mai nessuno, non avrò mai nessuno. Dobbiamo rimanere, propone lei, nei termini di un'amicizia fraterna. E voi sapete che questa è una delle tante stupidità che sono lecite a 20 anni, quando due si lasciano e si dice rimaniamo amici. Queste sono stupidità, vedete, e come dire, endemiche, ma sarei per dire che segnano la storia umana, perché rimaniamo amici, se lo saranno detto gli uomini e le donne dopo una relazione, nel 1842 come nel 1415, capite? In tutti i tempi, ma naturalmente chi è legato da un sentimento amoroso non può accettare neanche minimamente di avere una relazione di amicizia. Credoci. Ma chiedono, professore, il titolo che chiamo è Emma incontra Leone.